Eleonora Guidi è stata uccisa l'8 febbraio dell'anno scorso a colazione davanti al figlio, a coltellate dal suo compagno del tempo. Questo procedimento che si è aperto con il femminicidio di Eleonora è ancora in corso e nel mentre la persona che ha agito il femminicidio per ora ha trovato tutte le cure necessarie, ma certo non, come dire, le conseguenze penali del femminicidio. È un po' per queste ragioni che noi abbiamo deciso insieme con la famiglia e le amiche di Eleonora di essere in piazza sia il 21 che il 25. Questo pensiamo che sia necessario essere in piazza e siamo in piazza tutti gli 8 del mese per ricordare le donne che non sono sopravvissute alla violenza maschile. Qua a Firenze abbiamo un'installazione permanente in piazza Santissima Annunziata in cui ogni 8 del mese mettiamo un panuelo e un lucchetto per ogni donna che muore per femminicidio. E Eleonora per noi è un esempio lampante di quella che è un fenomeno strutturale, quello della violenza maschile contro le donne, che certo non si risolve nei tribunali o con le sentenze, ma che ci interroga anche sulla questione della giustizia e soprattutto sul garantire che le donne non vengano ammazzate, al di là poi dei procedimenti penali successivi ai femminicidi. Il presidio che farete martedì sarà davanti al tribunale proprio perché si tiene una delle prime udienze, giusto? Sì, pensiamo che il tribunale sia uno dei luoghi simbolo. Siamo state davanti al tribunale negli anni tante volte per casi, ricorderete il caso di Martina Rossi che era caduta perché provava a fuggire da un tentativo di stupro, era caduta da un balcone, così come altre donne morte in circostanze che hanno a che fare con il femminicidio o con la violenza. Ed è importante stare davanti al tribunale perché questa è una valenza simbolica molto forte per quello che diciamo sempre, cioè essere la voce di tutte quelle donne che più non hanno voce, e anche per fare una certa pressione perché l'attenzione su questi casi non si fermi al giorno o ai giorni successivi al femminicidio, ma che riusciamo a essere in grado di mantenere la nostra concentrazione su quello che succede, concentrazione insieme a stare vicino e accompagnare poi le persone più prossime, in questo caso di Eleonora e poi di tutte le donne morte per femminicidio. C'è bisogno di questa attivazione, lo diciamo perché al di là di Una di Meno e di tutte le realtà che hanno aderito, stanno aderendo, c'è bisogno che la città, che le persone si sentano partecipi con questo perché poi un cambiamento reale. Nel vostro comunicato mettete in evidenza anche come purtroppo le narrazioni mediatiche di casi di femminicidio continuano a essere sbagliate, si continua a parlare di raptus, di gesti inspiegabili e improvvisi, anche perché poi appunto nello specifico l'assassino in questo caso, se non sbaglio, ha tentato il suicidio, quindi come dire, la stampa li rappresenta come una sorta di giustificazione. Certo, per questo dicevamo che il caso di Eleonora Guidi è un caso assolutamente esemplificativo, no? Della vicenda della violenza maschile contro le donne dei femminicidi, perché quello che la stampa fa tendenzialmente è produrre un'immagine idealizzata della famiglia felice, di uomini di cui nessuno ha mai potuto sospettare niente e che quindi l'atto del femminicidio arrivi come un fulmine a ciel sereno in una situazione in cui non c'era nessun sospetto che potesse succedere. Queste sono delle rappresentazioni falsate, sia perché in questo caso specifico, ma è così nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono tutta una serie di segnali, ci sono i segnali della violenza, hanno a che fare con l'isolamento, hanno a che fare con la violenza psicologica, hanno a che fare con l'allontanare progressivamente la persona dalle sue reti, dalla sua famiglia, col controllarla, con condizionare la sua vita in una serie proprio di pratiche della quotidianità. Ecco, questi elementi sono già lì e in ogni caso in questo tentativo di rappresentare gli uomini, gli assassini irreprensibili, c'è di fatto una volontà di sminuire o cercare di minimizzare quello che è stato fatto. Ecco, in questo noi pensiamo che sia necessaria una presa di responsabilità collettiva, perché tra l'altro il problema è il singolo quando succede il femminicidio, ma non è il singolo, è la cultura in cui viviamo che in qualche modo continua a legittimare, continua a reiterare la cultura dell'abuso, la cultura della violenza, di cui poi i femminicidi sono di fatto la punta dell'iceberg. Ti chiedo di ricordare i due appuntamenti? Sì, ci vediamo questo sabato, quindi il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata, e ci vediamo poi il mercoledì 25 alle 9 del mattino davanti al Tribunale di Firenze. Chiediamo di insomma partecipare con, come abbiamo scritto, con rabbia e amore, perché è così che vogliamo stare vicino alla famiglia, alle amiche di Eleonora, è così che saremo vicino ogni volta che sarà necessario, perché purtroppo ancora la piaga dei femminicidi non si è chiusa.